avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Mi trovo impreparato a iniziare questa trasmissione perché devo farla ieri, ma in realtà la faccio oggi. Chi di voi ha poteri e facoltà da supereroe? Ognuno di noi ne ha. Non è detto che supereroi siano soltanto quelli dei fumetti, quelli del cinema, quelli celebrati dalle fiction. Ognuno di noi è supereroe. Il supereroe in realtà è un essere umano normalissimo che a un certo punto della propria esistenza scopre di avere un superpotere. Molte volte il supereroe viene da un altro pianeta, come nel caso di Superman. Molte volte il supereroe viene punto da un ragno, passa attraverso un raggio devastante, ha un'esperienza trasfigurante e si scopre il superpotere. I superpoteri di solito vengono sempre usati per beneficare l'umanità, per combattere il crimine, ma c'è anche il supereroe negativo che ha dei poteri per favorire il crimine, per arricchirsi, per avere una vendetta nei confronti dell'umanità. Una volta la mitologia raccontava di eroi che erano una sorta di stirpe intermedia, figli di dei e di uomini. Dal connubio fra dei e uomini nasceva l'eroe. L'eroe era Ercole, doveva fare alcune imprese fantastiche e fantomatiche, quanto inutili, quanto banali. Volete mettere con le imprese dei moderni supereroi? Nulla a che vedere. Ma visto che la nostra mitologia contemporanea ha infarcito la nostra mente di supereroi, vogliamo questa mattina capire qual è il nostro potere. Io vi dico subito qual è il mio superpotere, l'ho scoperto da poco, sollevo le donne. Non so come mai, sono gracilino, secco, magro. Adesso vado un po' più in palestra perché avevo avuto qualche problema alla spina dorsale, perché il supereroe deve anche aiutarsi. Il supereroe quando scopre il suo superpotere cosa fa? Una cosa, si cuce un costume. Poi si trova un rifugio segreto, poi si trova un'identità segreta e poi comincia a operare. Il mio costume è semplicemente un cinto sollevatorio, che è una cintura gibot, che in realtà passo come una sorta di potenziatore della forza. È un deframmentatore, che in realtà sono dei guanti che mi metto alle mani, deframmentatore sensoriale. E poi vado nelle piazze e sollevo le donne. No, alzate l'ultima volta 36 donne in un'ora, è tanto. Ieri sera sono stato a cena delle persone amiche e nel ristorante dove stavo sono stato costretto a sollevare donne, perché ormai le persone sanno che ho questo superpotere e mi dicono: per favore sollevi mia moglie, per favore mi sollevi. Prendo lì, le prendo sulle spalle e le sollevo. Questo è il mio mesto e modesto superpotere. Ma questa mattina vorrei che voi chiamaste e mi diceste qual è il vostro. Supereroi di tutto il mondo, venite alla luce, raccontatemi quali sono i vostri fantomatici poteri, quelli che tenete nascosti, quelli con i quali voi aiutate l'umanità. Come sai, io sono un grande appassionato di fumetti, soprattutto di quelli sui supereroi. Trovo che tutta la filosofia che circonda i supereroi sia affascinante. Prendi il mio supereroe preferito, Superman. Non un grandissimo fumetto, una sua grafica è mediocre, ma la filosofia non è soltanto eccelsa, è unica. L'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego. Batman è di fatto Bruce Wayne, l'Uomo Ragno è di fatto Peter Parker. Quando quel personaggio si sveglia al mattino, è Peter Parker. Deve mettersi un costume per diventare l'Uomo Ragno. Ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere. 800240024. Quanti di voi hanno un potere da supereroe? Sentite, questo è un brano che ho mandato più volte. È la parte finale della saga di Kill Bill, in cui David Carradine, morto con pianto, anche lui supereroe nella vita, supereroe nella finzione, grande combattente di Kung Fu, stanco e residuo e vecchio, rimasuglio di quell'icona forte nel film di Tarantino, è morto anche lui in fondo da supereroe, è morto impiccato, strangolato dentro un armadio con una sorta di marchingegno attaccato ai testicoli, non sa mai cosa facesse, è morto in quella maniera, è morto anche lui forse da supereroe. Beh, lui racconta e spiega prima del duello finale, appunto, con la sposa che lui aveva vituperato, ammazzato, tentato di uccidere, amato, distrutto e via dicendo, con la quale aveva fatto una figlia. Racconta questa fantastica storia della sua visione dei supereroi. I supereroi in realtà sono esseri normali che si mascherano, e acquisiscono e rivelano il loro potere mascherandosi. Superman è l'unico vero supereroe, perché Superman il costume da supereroe lo porta sotto i vestiti di Clark Kent, quello che voi in fondo siete. Noi tutti siamo dei Clark Kent che abbiamo il nostro costume sotto nascosto, almeno così ci piace pensare, che anche noi veniamo dal pianeta Krypton, che anche noi abbiamo le nostre forze invincibili e i nostri punti deboli. Qual è la vostra kryptonite verde? Qual è la vostra debolezza? Chi è che mette in crisi la vostra tempra di supereroi? 800240024. Superman non diventa Superman, Superman è nato Superman. Quando Superman si sveglia al mattino è Superman. Il suo alter ego è Clark Kent. Quella tuta con la grande S rossa è la coperta che lo avvolgeva da bambino quando i Kent lo trovarono. Sono quelli i suoi vestiti. Quello che indossa come Kent, gli occhiali, l'abito da lavoro, quello è il suo costume. È il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi. Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede. E quali sono le caratteristiche di Clark Kent? È debole, non crede in se stesso ed è un vigliacco. Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana. Più o meno come Beatrix Kiddo è la moglie di Tommy Plimpton. Abbiamo il primo coming out di supereroe, Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei ha un superpotere? Sì, un superpotere, diciamo super. Un potere particolare che è pressoché inutile, però è strano. Io riesco a percepire i campi elettromagnetici visivamente. Ovvero, se c'è un traliccio, un'emissione di energia piuttosto alta, riesco a vedere delle increspature nell'aria. Quando si è accorto di questo superpotere? Fin da bambino. Avevo la casa sotto i tralicci dell'alta tensione e vedevo questo tremolare dell'aria, diciamo. Quindi c'è sempre l'origine di un superpotere, come l'uomo ragno che è stato punto da un ragno in un laboratorio. Può essere lei sia stato concepito dai suoi genitori sotto quel traliccio e quindi ha assorbito nel momento magico dello spermatozoo che entra nell'ovulo un potere elettromagnetico che permette di vedere i campi magnetici. Può darsi, non saprei definirlo. Sì, ma quando lei adesso attraversa le città che sono dense di campi magnetici, dai telefonini alle reti wireless a tutte le altre cose, ha una vista increspata continuamente? È come se vedessi piovere. Aspetti, per essere più chiaro, come quando la TV riceve male, che si vede tremolare un po' l'effetto, come se vedessi. E lei per riuscire ad avere una visione limpida deve andare, non so, in cima a una montagna, in alto mare? Esattamente. Ma lei vede anche il campo elettromagnetico generato dal suo telefonino quando ce l'ha in tasca, lo prende in mano? No, solo campi elettromagnetici ad alta potenza. Ah, solo ad alta potenza, alta frequenza. Quindi soltanto diciamo l'alta tensione e dei grossissimi impianti di trasmissione. E delle grosse emissioni radiotelevisive, sì. Quindi non so se se ne va dalle parti dove stanno a Ponte Galeria gli impianti di Radio Vaticana, praticamente vede una burrasca. Probabilmente impazzirei, sì. Beh, molto divertente questa cosa. Sì, pressoché. Ha mai pensato di metterla a frutto, nel senso di offrirsi come, non so, rilevatore di campi magnetici? Non saprei, perché non riesco a rilevarne la potenza, da dove arrivano. Non è una cosa precisa, diciamo che vedo una distorsione. No, non è... Comunque questo a tutti gli effetti secondo me può essere considerato un superpotere, quindi io direi che lei a pieno diritto entra nella categoria di supereroi nascosti, di cui questa mattina noi vogliamo dare rivelazione. Ha pensato di farsi un costume, qualcosa, oppure va in giro in borghese normalmente così? No, vado in giro in borghese, sono abbastanza particolare a vedersi perché indosso degli occhiali neri delle fiamme, diciamo che... Per riuscire a non essere disturbato nella visione? No, sono occhiali da vista, perché io in realtà non vedo molto bene, quindi probabilmente ho un difetto di vista, magari quello che io percepisco come una distorsione è semplicemente un difetto di vista. Ah, può essere che sia semplicemente che lei è un po' presbite e astigmatico. Va bene, grazie Andrea. Giovanni, qual è il suo superpotere? Buongiorno, io non vorrei passare per un charlatano. Quelli mi sto prendendo sul serio. No, guardi, però io penso sia una delle poche persone al mondo che prende sul serio i pazzi, quindi... Però guardi, fin da bambino io ho sempre avuto un piccolo potere, riuscire a vedere le persone, che cosa fanno, come andrà la loro vita, che cosa combineranno. Preveggenza? Sì, ma io mi rendo conto una foglia di parabri preveggenza, anche perché faccio tutt'altro lavoro nella vita. Però, mi creda, io con questa sorta di preveggenza, alla fine con gli amici, con le persone che conosco, eccetera, si è creato un giro di persone che vengono a chiedermi le cose. E io ci azzecco. Non ho mai trovato una spiegazione di questo razionale, Essendo una persona molto razionale, però ha sempre funzionato. Allora guardi, visto che il superpotere questa mattina vogliamo scientificamente definirlo, sì, mi spieghi la fattispecie in maniera un pochino più precisa. Lei vede una persona, incontra una persona, deve vederla innanzitutto per intuire il suo futuro, oppure anche semplicemente ascoltando la voce? Anche ascoltando la voce, però fondamentalmente vedendola. Io per esempio posso vedere lei, no? E dirle: guardi, lei in questo momento sta lavorando in questa trasmissione, ipotizzo, la butto lì, però so che sotto sotto può avere un altro contratto di lavoro che le verrà dato tra 6 mesi, e questo contratto è per una testata giornalistica in cui lei farà un servizio. Sì, vabbè, ma è normale, il mio lavoro accade molto spesso, grazie a Dio, se no non potrei mantenere i miei figli. Ancora posso essere ancora più specifico, ma non sto parlando di lei in questo caso, ovviamente, no? Però posso andare molto più sullo specifico. Mi dicesse, ti fanno un contratto da spalatore di letame, forse direi: ma fai un contratto giornalistico? Posso anche dirle, allora, per esempio, posso vederla, sempre ipotizzo, e posso dire: ma guardi che, per esempio, sua moglie in questo momento ha comprato un motorino nuovo e il motorino è colore rosso. Mia moglie non ha mai guidato un motorino in vita sua, non guida manco la macchina. Non lo sto facendo a lei, però, per quanto possa sembrare folle quello che sto dicendo, a me succede, e succede con una precisione abbastanza. Vabbè, questo abbastanza. Mi fa senz'altro piacere. Le ripeto, essendo io una persona razionale, un professionista, faccio tutt'altro lavoro nella vita, non sono un ciarlatano, non la vivo anche un po' così, però mi succede, e io prendo atto in modo razionale che questa cosa è il mio piccolo superpotere, ma da sempre. Fermiamoci qua. Premetto, non ho mai nessun dubbio rispetto al superpotere. Ditelo con grande sincerità, con grande onestà. Non vi prendo per matti. Ognuno di noi, sono convinto, che ha una peculiarità, una capacità, un talento. Molte volte si vergogna di dirlo, si nasconde che magari sono cose che non appartengono proprio a quelli che volano o a quelli che riescono a piegare il metallo semplicemente con lo sguardo. Domenico, ciao. Qual è il suo superpotere? Allora, non è niente di psichico come quello precedente, è solo fisico. Praticamente da quando quando ero piccolo non mi ammalo mai, questo è il potere, non so se può essere considerato tale. Non ho mai avuto una malattia? Nel senso, da quando avevo 6 anni. Nel senso, posso essere messo insieme a persone che hanno malattie infettive e non la becco mai. Quindi in un lebbrosario lei può andare tranquillo, non le succede nulla, in un luogo... In un lebbrosario non ci sono mai stato, però per esempio quando i miei compagni di scuola avevano qualche malattia, oppure... Ma lei non ha avuto morbillo, orecchioni, pertosse, scarlattina, niente? Mi sono fermato al morbillo quando avevo 5 anni. E poi un'altra cosa, non so se è normale, che quando mi taglio oppure quando mi faccio un livido o qualcosa del genere, nel giro di un paio di giorni è completamente rimarginato. Sì, questo è da supereroe. Molti poteri di supereroe. Mi ricordo Heroes, una serie che andò in televisione un paio di anni fa. C'era una ragazzina che faceva la cheerleader, che si rimarginava le ferite. Lei cascava da un grattacielo, si spaccavano tutte le ossa e in un secondo ritornava sana. Questo direi che è una caratteristica propria da supereroe, la ferita che si rimargina immediatamente. Però, cioè, non a quei livelli, però, cioè, nel senso, un paio di giorni. Cioè, una coltellata quanto ci mette a ritornare a posto, secondo lei, ipotizzando? Allora, la cosa più vicina a una coltellata è quando mi sono mozzato una mezza falange e sono andato in ospedale, ovviamente, e non hanno messo i punti perché non c'era niente da cucire, e poi è ricresciuta nel giro di 2 settimane. Quindi lei in teoria potrebbe cominciare a occuparsi di repressione del crimine, stando ben tranquillo che potrebbe anche farci. Sì, ma non sono forte, cioè nel senso non è che posso andare a menare la gente, cioè le posso prendere. Le può prendere. Beh, però guardi, se si volesse fare una squadra di supereroi di Melog, abbiamo già il rilevatore di campi magnetici, abbiamo già l'uomo quasi invulnerabile, non del tutto ma quasi invulnerabile, abbiamo quello con la preveggenza, messi insieme già fate un nucleo terrificante, uno intravede il futuro, lei la mandano avanti, tanto prende le botte, non muore, e quello vede i campi magnetici, già qualcosa si fa secondo me. Vabbè, possiamo farlo. Marco Pellitteri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, ti ho chiamato come esperto che stai saggiando con mano ciò che tu hai sempre ipotizzato e studiato nel mondo del fumetto. Ricordo, sei esperto in fumetti, direttore scientifico delle edizioni Tunuè, e ha recentemente pubblicato il libro di Marco Arnaudo, Il fumetto supereroico. esiste una letteratura vastissima, un'epica contemporanea legata al supereroe, ti metto di fronte alla possibilità di toccare con mano dei superpoteri distribuiti fra la gente comune. Si può fare un confronto fra i superpoteri raccontati, immaginati e quelli che stiamo raccontando noi? Sì, si può fare, c'è in effetti chi l'ha già fatto. Esiste non soltanto una letteratura, come dire, primaria in termini fumettistici sul supereroe, chiaramente supereroi della DC Comics, supereroi Marvel, ma c'è anche una letteratura, come dire, alfabetica, non a fumetti, in cui in qualche modo si parla di supereroi del quotidiano. Per esempio c'è un romanzo molto carino di Andrew Kaufman, pubblicato anche in Italia, che si intitola Tutti i miei amici sono supereroi, dove il concetto di superpotere viene adattato in maniera molto spiritosa al contesto quotidiano, per cui una caratteristica con la quale il protagonista identifica, apostrofa in certi casi i suoi amici o anche i suoi non amici, sono delle caratteristiche del quotidiano che assurgono a superpotere. Allora quindi c'è la perfezionista, l'ospite, il businessman, come dire che io per esempio da ragazzino avevo un superpotere che era il superpotere di imbucarmi alle feste, e quindi diciamo in questo senso si può parlare di un superpotere immaginario, ma che si può trasformare in una vera e propria caratteristica con cui l'individuo viene individuato. Io devo dire che la letteratura, la fantaletteratura contemporanea, che è fatta non soltanto di libri ma anche di fumetti, di serie televisive, di film, ha una vasta produzione di fattispecie in cui esseri umani, famiglie umane normalissime, a un certo punto scoprono dei superpoteri. Una in modo particolare è andata in onda l'altra sera sui canali della Fox. Salutavo la mia famiglia, ma non vedevo l'ora di incontrare George per compilare il manuale della mia nuova giostra. Molti supereroi volano. Io non so volare. E che mi dici dei proiettili? Io non so volare. Devi solo fare un bel salto. Ascolta, prendi un bello slancio, va bene? E poi pensa come qualcuno che può volare. Per te è facile dirlo, ma se non funziona io mi spiazzo. Sei quello che mi ha supplicato di sparargli. Va bene. Questa è la straordinaria famiglia Powell, che è fatta di persone normalissime, che un giorno hanno un incidente aereo, come sempre accade nella genesi di un supereroe, sprofondano nel mare e quando escono fuori hanno tutti i superpoteri. Il padre, che faceva il poliziotto, ma tristissimo, costretto a fare gli identikit, una cosa per niente eroica, è quasi invulnerabile, prende revolverate, a meno che non le prenda nella nuca, e estrae il proiettile. È velocissimo, può saltare. Qui vedete il primo training che fa il signor Powell, e si accorge può saltare di grattacielo in grattacielo. Marco Pellitteri, tu hai visto questa serie? Sì, ho visto, sono usciti i primi due episodi, fino adesso è divertente, e ovviamente diciamo sono già subito scattati i paragoni con un precedente illustre molto recente, che è il film Gli Incredibili, certo, di Brad Bird della Pixar Disney, e questo diciamo è il referente primario, però la storia in realtà parte da lontano, diciamo la prima famiglia supereroica risale al 1961 ed è i Fantastici Quattro, certo, creati da Stan Lee e Jack Kirby per la Marvel. Quella era una vera e propria famiglia, ovvero un fidanzato, una sorella e un fratello e un amico di vecchia data. Tra l'altro la cosa è interpretata dallo stesso attore che adesso fa il papà in No Ordinary Family. Però ci sono anche altri due precedenti interessantissimi in cui il supereroe diventa un elemento diciamo della quotidianità. Scusami Pellitteri, solo un attimo, se no mi riconosceranno il superpotere di sforare dalla trasmissione, di dare le informazioni della borsa. Un istante, poi riprendiamo. 800240024. Avete dei supereroi in famiglia? La vostra è una famiglia di supereroi? Questa è la mattina per rivelarlo. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Allora, mister Incredibile, lei ha un'identità segreta? Ogni supereroe ha un'identità segreta. Non ne conosco nemmeno uno che non l'abbia. Chi ce la farebbe a sopportare la pressione di essere sempre super? Ma certo che ho un'identità segreta. Mi ci vede vestita così, che ne so, al supermercato. Ma andiamo, vestita da Elastigirl a fare la spesa. Per quante volte uno salvi il mondo, quello riesce sempre a rimettersi di nuovo nei guai. Insomma, a volte vorrei dirgli, resta in salvo, capisci? Per un pochino. A volte mi piacerebbe una vita semplice, capisce? Rilassarmi un po', mettere su famiglia. Sistemarmi? Lei scherza! Sono all'apice della carriera! Lavoro con i pezzi grossi! Ragazzi, andiamo! Lasciar salvare il mondo agli uomini! Non ci penso nemmeno! Non se ne parla. Singolarmente, quello che dice Elastic Girl, che è la signora della famiglia degli incredibili, non trova riscontro in questa trasmissione. Mi stanno chiamando tantissimi uomini che stanno rivelando il loro superpotere. Non vedo una donna. Non esistono supereroine. Nessuna delle ascoltatrici ha un potere segreto, una facoltà nascosta, una caratteristica innominabile che la fa super rispetto al resto del mondo. 800240024. Mestamente andiamo avanti con la gloriosa lista dei supereroi. Marco, buongiorno. Sì. Buongiorno. Qual è il suo superpotere? Ma il mio superpotere, se si può così chiamare, o super sfiga, se così vogliamo dire, io praticamente quando passo sotto ai lampioni accesi, diciamo, si spengono. Sempre questo, automaticamente? Ma sempre no, però diciamo una volta su tre sì. Quindi lei crea un campo di disturbo che spegne i lampioni, ma è utilissimo, ma... scusi. Io sto pensando sempre al mio nucleo operativo. Allora, avanti tutti, il quasi invulnerabile. Poi il rivelatore di campi magnetici. Poi naturalmente il preveggente e lei che spegne i lampioni. Deve fare buio attorno perché non siate individuati. Quindi... Può essere utile. Io, cioè, sembrerebbe una coincidenza la prima volta, la seconda, ma da quando ho, mettiamo, 15 anni, sarà capitato centinaia di volte, allora... Poi non so cosa sia, io non credo a niente a livello... Beh, però è utile, quando lei aveva le fidanzatine, dice andiamo a fare una passeggiata in questo viale illuminatissimo, spegneva tutti i lampioni, l'appoggiava al lampione e faceva. No, magari, forse... Manco questo. Deve essere utile, ma non a comando, diciamo, non a comando. Non potevo, cioè non è che non si possa comandare, però capita sotto il lampione dove passo, non sopra tre avanti, diciamo, o tre indietro. E quando lei... transita, si riaccende il lampione o la lampadina è fulminata proprio? No, fulminata. Fulminata, lei fulmina le lampadine. Poi dopo, se il giorno dopo si riaccende, questo non posso saperlo, però quando ci passo io si spegne. Questo è un gran potere secondo me. Ma non lo so, io non credo soprannaturale, questo è ovvio. Ma non è soprannaturale, lei probabilmente in una fase della sua fanciullezza che non ricorda ha attraversato una situazione atipica, è passato per un laboratorio di uno scienziato pazzo, è stato colpito dal raggio di un UFO, ha mangiato qualcosa che non doveva mangiare e ha acquisito questo potere, capita. O magari ha messo le dita nella presa della corrente elettrica, ha preso la scossa e da allora c'ha il superpotere. Succede sempre così all'inizio. Marco, buongiorno. Ah, Marco ce l'ha fatto. Pier. Ah, buongiorno Nicoletti. Qual è il suo superpotere? Non mi rompo le ossa, ma neanche... Ah, quindi lei come con l'uomo semi-invulnerabile potrebbe fare coppia? Non mi sono mai rotto le ossa, in 15 anni che gioco al rugby non mi sono mai neanche rotto un dente, niente. Prima giocando a pallone da ragazzino ho stortato e ho rotto ginocchia io ad altri in contrasti, ma non mi sono mai nemmeno slogato. O mi hanno chiuso una mano dentro la portiera quando ero bambino e le mani erano sane, livi di sangue che peraltro si riprendono velocemente, ma non si sono... E com'è il personaggio di quel film di Bruce Willis, quando va in acqua a fondo per davvero, c'è una fatica mortale a nuotare, un galleggiamento negativo nel vero senso della parola. Però vede che stiamo individuando dei filoni di superpotere che in realtà esistono. Ogni fantasia, ogni racconto epico, ogni immaginazione fonda sempre le radici su una realtà che l'uomo comunque ha conosciuto, o in un'epoca mitologica o in un'epoca reale. I supereroi che guardiamo con grande attenzione nelle fiction televisive, nei film, nei romanzi a fumetti, nei cartoni animati, in realtà sono fra noi e voi ne siete la rappresentazione più estrema. Marianna, finalmente una donna supereroe. Buongiorno. Io ho la capacità di sentire quando c'è più gente, quando ci si trova in... L'iperudito. Prego? L'iperudito si chiama. Ma di seguire la conversazione di più persone, io non so se poi lo... Ah, chiamavo. È multitasking nell'ascolto. Sì, io credevo fosse una stupidaggine, però quando ho sentito lei che diceva che mette su una squadra, io vi sarei molto utile perché faccio la spiona in sostanza. Lei passa le giornate a ascoltare col bicchiere il muro del vicino? No, non col bicchiere, non ha capito. Se siamo in una stanza c'è tanti invitati, ecco. Segue i discorsi di tutti. Cioè, riesco a, se voglio, chiaramente, se mi ci metto, non è che sto a sentire tutti quanti, però io credo sia dovuto perché ho avuto tanti figli e quindi ascoltare tutti assieme, comunque questa cosa mi riesce. Io la chiamerei l'iperascolto. Ma come se vuole. Lei la portassi in un luogo in cui devo capire se in una piazza ci sono dei pericolosi killer, assassini o terroristi, la metto al centro della, la metto in mezzo a Piazza Barberini, dove è la fontana, lei sente tutto quello che accade intorno, individua subito il killer. È così. Benissimo, perfetto. Marianna ha un grande superpotere. Roberta, altra donna eroina, buongiorno. Finalmente. Qual è il suo superpotere? Allora, io non stengo lampadine e solitamente quando sbatto mi faccio dei gran lividi, però dicevo, scrivevo su Facebook che faccio la mamma, la lavoratrice, l'amica, ormai non mi riesce più, te l'ho scritto su Facebook. E la moglie l'ho messo per ultima, purtroppo. Vabbè, dov'è il superpotere in questo? Quello che fa il 90% delle donne. Eh sì, infatti dicevo questo in realtà, che i superpoteri forse ce li abbiamo un po' tutti nel fare un po' tante cose. No, bisogna essere precisi. Allora, ci sono delle ordinarie attività eroiche che fanno guadagnare la palma della gloria a un'infinità di donne, ma non è un superpotere. Esatto. Dai, fa la mamma normalmente, la moglie stancamente, come mi fa capire, l'amica probabilmente con più entusiasmo, ma dov'è il superpotere? No, il superpotere è cercare di far quadrare tutto, cercare di fare tutto. E cos'è il super? No, lei deve dirmi qualcosa di straordinario. No, nessun potere straordinario, solo questo. Quindi stava bleffando solo per parlare in trasmissione. Ah no, io ho messo il post e ho messo mi piace, quindi ho richiamato come chiesto e l'ho fatto. Insomma, sì, ma guardi, ci sono 10.000 persone. Vabbè, comunque, le diamo il superpotere della faccia tosta di millantare superpoteri che non ha. Luca. Sì, buongiorno. Cosa sa fare? Ciao Gianluca. Allora, io riesco a vedere da lontano. Io faccio il camionista, mi capita spesso... La supervista. Come? La supervista. La supervista, sì. Quindi se la metto insieme con la signora con il superudito, in coppia riuscite a essere, esatto, un buon, sì, indicatore. No, ma per davvero mi capita spesso di vedere i soliti cartelli autostradali quando per gli altri sono ancora proprio impercettibili, io riesco a leggerli. O capita fuori dai ristoranti quando ci sono quelle liste esposte, io magari dall'altra parte della strada riesco non magari perfettamente a leggere il menu, però riesco a individuare bene il prezzo, cosa c'è di primo, qualche parola qua e là, e mi capita spesso. Poi ha mai provato a vedere se la supervista può essere anche vista a raggi X come Superman, cioè vedere attraverso corpi opachi? No, questo no. Anche le persone magari che non vedo da più tempo le riesco a riconoscere magari da lontano soltanto riguardo ai lineamenti del viso, ok? Ma mi capita spesso. Infatti è anche iperfisionomista, tipo... quindi due superpoteri, supervista, iperfisionomia. Rosanna, buongiorno. Buongiorno. Cosa sa fare? A me succede questo, cioè ho la sensazione e la certezza a questo punto di chiamare le persone sul cellulare e sul telefono fisso. Cioè, no. Col pensiero. Ah, fa squillare il telefono col pensiero? Sì, devo chiamare Maria Pia? Dopo qualche minuto, anche di meno, squilla Maria il telefono. Pia chiama me, oppure io chiamo Maria Pia. Ah, ma quindi una sorta di telepatia? Io penso che sia o telepatia o il mio pensiero corre sull'onda del telefono. Quante persone ha memorizzato nel suo cellulare? Quanti numeri? Tanti. Quanti? Facciamo penso un numero. 100, penso più di 100. Beh, mica sono tanti, 100. Beh, insomma. Ma mi succede spessissimo questo. Riesco, lei pensa a una persona, squilla al telefono. Sì. Oppure penso, devo chiamare Maria Pia, un nome così. Maria Pia dopo qualche secondo mi chiama. Gli fischieranno le orecchie. Sì, ma è vero così. Oppure chiamiamo all'unisono. Io premo la chiamata e Maria Pia la stessa cosa fa. E ci incontriamo. Con questa Maria Pia ho un rapporto molto stretto. Maria Pia è un nome così generico. Ah, per farci capire il potere. Per dire l'interlocutore. A cosa potrebbe servire questo iperpotere, secondo lei? Ah, non lo so. Ha mai provato a metterlo in pratica? Non so, io penso, immagino. Viene da lei un cuore affranto. Dio mio, non mi chiama da una settimana. E lei, zac, gli fa suonare il telefonino e quello la chiama. Potrebbe usare... No, non mi interessa di fare queste cose. Anzi, è un po' di... Ha un po' di paura. Di paura. Guardi, tutti noi supereroi all'inizio siamo titubanti prima di usare il nostro superpotere a favore dell'umanità. Però lei pensi quanto bene può fare, si concentri e metta a frutto dell'umanità il suo meraviglioso potere. 800240024 in perfetto orario do la linea alle informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Chuck Norris non lancia la palla al cane. Chuck Norris lancia al cane. Chuck Norris è in grado di scalare le montagne in bicicletta, su una ruota sola e senza mani. Chuck Norris riesce a baciarsi la schiena. I buchi neri sono dovuti a Chuck Norris, che prende a calci rotanti l'universo. Gesù ha trasformato l'acqua in vino, ma Chuck Norris ha trasformato quel vino in birra. Chuck Norris può volare. Questo perché la forza di gravità non ha il coraggio di dirgli che non può. Chuck Norris ha giocato alla roulette russa con una pistola completamente carica e ha vinto. Chuck Norris può disegnare un triangolo con quattro lati. 800240024, stiamo elencando la capacità contemporanea di creare supereroi. Non ci bastano più gli eroi. Nel passato, in epoca arcaica, in epoca moderna, l'uomo aveva bisogno di eroi. Beato il popolo che non ha bisogno di eroi, ma noi di eroi non abbiamo bisogno perché abbiamo i supereroi. I supereroi, l'avete sentiti questa mattina, sono persone che si nascondono nelle loro identità segrete ma capaci di tutto. Abbiamo avuto la donna con l'iperudito che sente contemporaneamente le conversazioni di migliaia di persone, l'uomo con l'ipervista che legge cartelli a distanza, il rivelatore di campi magnetici che sì da bambino vede incresparsi l'aria laddove c'è un campo magnetico. Abbiamo avuto due uomini quasi invulnerabili, un giocatore di rugby che non si è mai rotto, un altro si è tagliato una falange e si è subito rimarginata. Abbiamo un'infinità di talenti, un'infinità di possibilità di scoprire il supereroe che è nascosto in noi, e prego questa mattina di continuare a raccontare. Non fate come la finta mamma supereroina, che non c'è nessun eroina nel fare la madre, o perlomeno è il quotidiano eroismo condiviso da tante persone. Qua vogliamo un supereroe come Candida. Candida, qual è la sua facoltà di supereroina? Candida? Candida è scomparsa. Io, sì. Scusi, Monica? Monica, io sì. Leggo Candida. Sì. Si chiama Monica? No, invece sono Monica. Monica allora, Candida. Sì, allora, il mio potere è programmare il sogno. Programmare il sogno? Sì, io metto gli ingredienti e dopo c'è il proseguimento, questo è il bello, il divertimento. Ma come fa a metterlo a frutto dell'umanità, il fatto? Sono i suoi sogni, può portare dentro i suoi sogni altre persone? Sì, posso, metto quello che voglio e dopo di là parte il sogno. Con quei componenti lì prosegue un'avventura, diciamo, perché è sempre uno scoprire qualcosa di nuovo. Ah, ma rimasto, no, che finire. Sogno sarebbe, certo. Sì, ecco, e questo è per me un divertimento. No, ma dicevo, il supereroe è tale se l'umanità ha un beneficio dalla sua esistenza. Lei programmi un bel sogno, io oggi penso un bel sogno, può portarmi dentro al suo sogno e farmi condividere il suo sogno? Allora gli racconto quello che mi è successo da bambina, insomma, da adolescente, avevo 12 anni. E stavo dormendo al pomeriggio insieme a mia mamma, una cosa particolare, e ho avuto un incubo, perché per dirle era un incubo, era a casa dei miei nonni, e giù dal camino scendeva questo fuoco, questa luce rosa che ritenevo che fosse il diavolo in quel momento, che mi voleva portare via. E io facevo fatica a svegliarmi. Ma dov'è il superpotere? Tutti vedono il diavolo che esce dal camino. No, aspetta. Allora, lì avevo preso la mano di mia mamma e dopo che mi sono svegliata, che l'ho raccontato, mi ha detto anch'io ho sognato qualcosa del genere. Ah, sogno condiviso con la madre. Non è sufficiente, poi vedi, si sta segando come un ciocco di legno nel camino, quindi non ha capacità di essere supereroe. Patrick. Buongiorno. Io non so se proprio definirlo un superpotere. Andiamo al punto. In senso, è ed è una cosa strana, non solo riesco a percepire odori, tipo non so, sono incolonati in macchina oppure siamo andati iper olfatto, sento il profumo magari di donne, potrebbe essere anche semplicemente fame, non lo so, profumo di donne magari sì, quello magari è un po' di attizzamento recondito. Però per esempio riesco a percepire dei feromoni, io me ne sono accorto facendo l'apicoltore, quando aprivo la cassetta alle api, nel momento in cui le api stavano per sferare poco prima l'attacco, liberano un feromone, io sentivo uno strano aroma, lo percepivo fra la gola e il naso, è una cosa strana. Secondo me, padre, che è successo questo, come l'uomo ragno è stato punto da un ragno, lei è stato punto da un'ape facendo l'apicoltore e le ha trasmesso le facoltà dell'ape, lei è come un'ape, lei riesce a percepire probabilmente alcune vibrazioni, alcuni odori, alcune circostanze dell'aria, quindi ha il potere dell'ape, è molto utile l'iper olfatto, che abbiamo già avuto un ipervista e un iperudito, messi insieme fate un'ipersensorialità e allora sono nei pasticci. Perché essendo operaio, se faccio la fine della operaia, diciamo che non mi aspetta un gran futuro davanti. Potrebbe anche funzionare che il fatto che lei un giorno si trasformi in ape regina, questo potrebbe essere per lei una cosa molto importante. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Questa mesta e triste canzone dall'animo lacerato di un cantore russo che gira la manovella del suo organino ci rivela un esperimento che va oltre la norma che stiamo facendo a Radio 24. Visto che parliamo di superpoteri, noi abbiamo deciso di prendere una persona, di isolarla dal mondo civile, dal mondo degli esseri umani, chiudere una sorta di gabbia, una sorta di manicomio, isolata sull'oceano nel faro di Capo Finisterre. Questa persona è Barbara Alberti, che già si trova nel luogo della sua segregazione. Barbara, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. È già nel faro lei? Eh sì, sono già nel faro dove mi ha mandato lei, a Finisterre, ai confini della terra. Spero che sarà una solitudine abitata, cioè nel senso che magari gli ascoltatori avranno la carità di chiamarmi alla guardiana @radio24.it. Noi dobbiamo spiegare cos'è esattamente, Alberti. Da domenica mattina Barbara Alberti sarà chiusa nel suo faro, in cui starà probabilmente per qualche mese. L'umanità ne sentirà la mancanza, ma potrà collegarsi con lei. Barbara Alberti è la guardiana del faro. Da domenica mattina alle 9 alle 10 chiunque potrà parlare con lei, potrà comunicare con lei e raccontarle, penso, le cose per cui lei esiste, dare risposte ai drammi d'amore e raccontare quella che è la moderna lettura delle pene amorose, che questo in fondo è anche un potere alla supereroina, Alberti. Ma non lo so, a me piacerebbe fare come Candida, che programmare i sogni è una specie di PSA, cioè di pronto soccorso amoroso, cioè non so, aggiustiamo cuori, seghiamo corna, insomma come vanno a marchi, ecco, dei cuori, ecco. E naturalmente possono chiamare donne, chiameranno soprattutto donne, però... Io le ho prestato anche la mia segreteria telefonica, 800 28 11 11, quindi se qualcuno vuole può cominciare a mandare messaggi. Lei che impressione fa sta chiusa in un faro e non vedere nulla, avere soltanto voci di persone che la chiamano, Alberti? Ma è come l'inferno, è bellissimo. È bellissima la nebbia, ci sono i gabbiani, ci sono le voci. E naturalmente, ecco, voglio dire, spero che mi chiamino le donne, ma anche i maschi. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. Naturalmente il tempo limitato per il collegamento con Melog della Guardiana del Faro, che è il programma di Barbara Alberti, che potrete seguire, spero che seguirete, da domenica mattina alle 9. Tutte le persone che anche mi chiamano a me mi dicono: dacci una soluzione di drammi d'amore. Io non ne so niente dell'amore, che ne so, poi non me ne importa nulla, poi sono un distruttore. L'Alberti fa questo di mestiere. L'abbiamo presa come una matta, l'abbiamo chiusa dentro un faro, ma è vero, sta lì realmente. Il faro di Capo Finisterre è il luogo estremo dell'Occidente. Una volta c'erano Hic sunt leones. Oltre Finisterre non c'era più del mondo conosciuto e civilizzato. È isolata lì e aspetta che voi la chiamiate. 800 28 11 11. Chiamate anche Barbara Alberti. Mi divertirà sentire quali saranno le sue risposte. Noi ci sentiamo lunedì. Alors tous deux on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.